Capitolo 127. La quinta fatica. Le stalle di Augia. Quinta fatica di Eracle fu di ripulire in un solo giorno le sozze stalle di Augia. Euristeo, con gioia maligna, già si immaginava Eracle costretto a raccogliere lo sterco in canestri e a portarseli via sulle spalle. Augia, re di Elide, era figlio di Elio o Eleo e di Naupiadama, una delle figlie di Anfidamante, benché altri pensino che sua madre fosse Ifiboe e altri ancora lo dicano figlio di Posidone. In greggi e mandri era l'uomo più ricco della terra, poiché, per divino favore, le sue bestie erano immuni da malattie e prodigiosamente fertili, né mai abortivano. Sia vacche sia pecore generavano quasi sempre femmine, tuttavia Augia possedeva 300 tori neri dalle candide zampe e 200 stalloni di pelo fulvo. Inoltre 12 eccezionali tori bianco-argentei sacri a suo padre Elio. Questi 12 tori difendevano le mandre dall'assalto delle bestie feroci che a volte scendevano dalle boscose colline. Ora per molti anni nessuno aveva mai ripulito dallo sterco le stalle e gli ovili di Augia e, benché il puzzo nefasto non fosse nocivo per le bestie, fece scoppiare una pestilenza nell'intero Peloponneso. Inoltre le valli dove le mandre vascolavano erano coperte da uno strato di sterco così alto che non si poteva più ararle per seminarvi il grano. Eracle chiamò Augia da lontano e gli propose di ripulirgli le stalle prima del calar del sole in cambio di un decimo del suo bestiame. Augia rise incredulo e convocò Fileo, il suo figliolo maggiore, perché fosse testimone della proposta di Eracle. «Giura allora di compiere questa impresa prima del calar del sole», disse Fileo. Il giuramento che Eracle pronunciò in nome di suo padre fu il primo e l'ultimo della sua vita. Augia similmente giurò di tenere fede al patto. A questo punto Fetonte, il capo dei 12 tori bianchi, caricò Eracle scambiandolo per un leone. Eracle afferrò il toro per il corno sinistro, gli forzò il capo all'indietro e lo stese a terra. Seguendo il consiglio di Menedemo Leleo e aiutato da Iolao, Eracle dapprima aprì due brecce nelle mura della stalla e poi deviò il corso dei vicini fiumi Alfeo e Peneo, o Menio, di modo che le loro acque invasero le stalle e i cortili, ne spazzarono via tutto il sudiciume e avanzarono ancora impetuose per ripulire gli ovili e la vallata adibita a pascolo. Così Eracle compì la sua fatica in un solo giorno, risanando l'intero paese e senza sporcarsi nemmeno il mignolo. Ma Augia, saputo che Eracle aveva già ricevuto da Euristeo l'ordine di ripulire le stalle, rifiutò di versargli la ricompensa promessa e osò persino negare di aver stretto un patto con lui. Eracle allora propose che il caso fosse sottoposto ad arbitrato. Tuttavia, quando i giudici si furono insediati e Fileo, citato da Eracle, testimoniò il vero, Augia balzò in piedi, livido per la rabbia, e li bandì ambedue dall'Elide, affermando che Eracle l'aveva tratto in inganno, poiché il lavoro era stato compiuto dagli dei fiumi e non da lui stesso. Peggio ancora, Euristeo rifiutò di considerare valida quella fatica, perché Eracle era stato assoldato da Augia. Fileo allora si recò a Dulichio, ed Eracle alla corte di Dessameno, re di Oleno. Più tardi salvò la figlia di Dessameno, Mnesimache, dagli assalti del centauro Eurizione. Questo mito molto confuso pare sia nato dalla leggenda che Eracle, come Giasone, ricevette l'ordine di domare due tori, aggiogarli, ripulire una collina incolta e poi arare, seminare e mietere in un solo giorno, la solita prova imposta al candidato al trono. In questo caso la collina non doveva essere ripulita da sassi e sterpi, come nelle versioni celtiche del mito, ma dallo sterco, probabilmente perché il nome dell'araldo di Euristeo, incaricato di trasmettere i suoi ordini, era Copreo, uomo dello sterco. Sir James Frazier, nel suo commento a Pausania, cita una favola scandinava nella quale un principe che desidera sposare la figlia di un gigante deve prima ripulire tre stalle, ma per ogni forcata di sterco che getta via se ne accumulano altre 10. La principessa allora gli consiglia di capovolgere la forca e di usarla dalla parte del manico. Il principe ubbidisce e subito la stalla è ripulita. Frazier immagina che, nella versione originale del mito, Atena abbia dato a Eracle un analogo consiglio, anzi è probabile che la favola scandinava sia una variante di questa fatica. Il numero dei capi di bestiame di Augia non ha importanza nella leggenda, ma serve soltanto a dare un'idea dell'enorme quantità di sterco ammucchiatosi nelle stalle. Il concime animale, come il mito dimostra, non era sfruttato dai contadini greci. Esiodo, nelle opere e i giorni, non ne fa menzione. E Mitchell dimostra che antiche leggi proibivano il pascolo sulle terre coltivabili. Vero che Argo, il cane di Odisseo, giaceva su un mucchio di sterco che si usava per concimare i campi, ma l'Odissea, ovunque sia stata scritta, e certo non fu scritta sul continente, rivela un chiaro ricordo dell'influenza cretese in ogni accenno all'agricoltura e all'arboricoltura. Secondo certi mitografi, Augia era figlio di Elio, che significa semplicemente re dell'Elide. Secondo altri era figlio di Posidone, il che ci fa pensare che si trattasse di un eolico. Ma Elio è stato qui confuso con Elio, il corinzio dio del sole, e ad Augia si attribuisce allora una mandria di bestiame sacro come quella di Sisifo. I capi compresi in queste mandrie erano 350 e corrispondevano a 12 lunazioni complete, meno i 5 sacri giorni intercalari egiziani. Che si trattasse di bestiame lunare è indubbio, dati i suoi colori, fulvo, bianco e nero. E i 12 tori bianchi rappresentano le 12 lunazioni. Questi animali sacri erano spesso rubati, come fece Eracle stesso nel corso della decima fatica, e la sua lite con Augia si concluse quando egli riuscì ad appropriarsi i 12 tori. La quinta fatica, che in verità riguarda soltanto il compito dell'aratura, della seminagione e della mietitura, è stata confusa con due altre. La decima, e cioè la cattura dei buoi di Gerione, e la settima, ossia la cattura del bianco toro cretese di Posidone, che non veniva tuttavia usato per l'aratura. Nel culto di Posidone, che è pure descritto come padre di Augia, i giovani lottavano con i tori e la lotta di Eracle contro Fetonte, come quella di Tesio contro il Minotauro, va interpretata come un rito connesso con l'incoronazione. Grazie al magico contatto con le corna del toro, il re acquistava il potere di fertilizzare la terra e si meritava il titolo di Potidan o Posidone, attribuito all'eletto amante della dea Luna. In modo analogo, durante una prova d'amore, Eracle combatté contro il fiume Acheloo, rappresentato da un uomo con la testa di toro, e gli portò via la sua cornucopia. Eracle, che fa deviare il corso del fiume Alfeo, ci lascia supporre che la raffigurazione dalla quale fu tratto questo episodio mostrasse l'eroe mentre torce il capo del toro cretese, stringendolo per le corna, presso le rive di un fiume dove la mandria stava pascolando. Il toro fu creduto un dio fiume, e la scena fu interpretata come se Eracle avesse deviato le acque per ripulire i campi destinati all'aratura.